Benvenuti a Dedicato, eccoci di nuovo questo mercoledì in studio con i nostri ragazzi di Voice On Air, che è appunto Voice On Air, è il nostro laboratorio organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Rimacheride e con Radio Città Fujiko, che lo promuove e lo porta avanti da parecchi anni. È un laboratorio per speaker radiofonici, quindi i nostri giovani o meno giovani speaker presenti ai laboratori hanno la possibilità, in questo caso essendo il corso avanzato, hanno la possibilità di andare direttamente in radio nella nostra trasmissione, perché fortuna vuole che Dedicato dia spazio ai giovani. Quindi, come sempre, trasmissione con i giovani per i giovani è la nostra. Ecco qua i nostri giovani di Voice On Air che fanno degli esercizi e dei giochi radiofonici assieme a noi, quindi io li provoco, gli do i mezzi e le informazioni per fare alcune cose in radio e loro fanno e ci provano, e devo dire che riescono anche bene. In questo caso parliamo di interviste. Allora, abbiamo ascoltato la settimana scorsa la Cree che ha intervistato la mascotte. Questa settimana è il turno di un altro fanciullo, sempre del laboratorio avanzato Voice On Air, che gli lancio la palla, lui l'ha presa al volo e quindi... Stefano, la palla passa a te per la tua intervista alla mascotte. A voi due. Buon pomeriggio, mascotte, come sta? Le pongo due domande per partire. Due? Posso? Due, vai. Allora, io stamattina mi sono alzato con una domanda esistenziale. Io ho dei dubbi esistenziali al mattino. Immaginava. Brava, immaginava bene. Mi sa dare la definizione di che cos'è un power ranking? Un che? Esatto. Un power ranking è fondamentalmente... Ma cos'è un PowerPoint? Quello, ok, beh, nel senso, è una sorta di... Ci sta. Fondamentalmente ti dirò di dare una sorta di indice di gradimento, dal quello peggiore a quello migliore, di tre personaggi. E mi devi motivare il perché uno lo mette al terzo posto, uno al secondo posto e uno al primo posto. Sì. Quindi, power ranking tra Avril Lavigne, Marco Mengoni e ultimo motivato. Vorrei ultimo perché ultimo per... Mi sembra no. Ultimo è ultimo. Ma perché? Perché sì. Perché sì, è come perché se tu vai in giro per... la musica che fa. Ok, quindi non gradisce il suo tipo ultimo di musica. Ultimo è ultimo. Ok, però Avril Lavigne è seconda perché l'amo. Ma io fai conto che io non... perché dovrei amarla? Perché fa delle canzoni belle. Sì, ma non sta convincendo i radioascoltatori. Allora, adesso mi rivolgo direttamente a voi. Voi dovete amare Avril Lavigne, perché lei è simpatica, dolce, carina ed è bella, è bellissima. Cioè, scusi, mascotte, simpatica e dolce perché l'hai incontrata al bar? Sì, l'ho incontrata. Ieri sera abbiamo preso uno sprizzino insieme, bello. Abbiamo fatto un aperitivino insieme con un bello sprizzino dei patatini. Ci sentono in tre regioni, la smetta, mascotte. Allora, nel senso... La mascotte non ha bevuto nessuno sprizzino, se non... Sprizzino analcolico, ovviamente. Analcolico, giusto. Ok, quindi, ultimo, perché non ci piace il genere, Avril Lavigne, perché è una persona... dà anche dei contenuti in queste canzoni. Certo. Sì. I want not to be it's so complicated. I see your review. Allora, not to be 6 anni di inglese a scuola. Detta come ha detto, lei non sa. She yelling for lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one, but you become somebody else around everyone else. like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Avril Lavigne ha una casa a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto, ma è una cazzata gigante, però noi vogliamo salutare gli amici di Castiglione della Pescaia che dall'1 gennaio possono iniziare ad ascoltare Dedicato e anche varie trasmissioni nuove che arriveranno. Anche salutare Avril Lavigne. Anche salutare che sarebbe una cena pazzesca. Non divaghi. Primo? Mengoni. Perché? Perché sì. No, Mascotte, lei mi deve... Ogni giorno mi alzo dal letto, mi metto a fare, ti imploro Marco, notami nel senso che ti dà una nota di classe. Mengoni, ci siamo fatti due concerti quest'anno. Ah, wow. Due. E quindi e la mascotte era quasi con le lacrime e la bava alla bocca tra, mi guardava cantare. Ero indeciso tra Ultimo o Attanasio. E chi è? Ecco, esatto, perfetto. Ma perché stamattina mi sono svegliato mentre facevo colazione con Avril Lavigne a Castiglione della Pescaia, poi sono arrivato qua con un regionale e volevo un attimo chiedermelo. Però allora possiamo continuare? Sì, vai, la vedo presa dopo. No, detta come ha detto lei stamattina... ci siamo incrociati, lei mascotte, perché stava andando a fare una interrogazione, no? Una verifica di geometria. Chi? Lei. Io. Sì. Io. Sì. Quando? Stamattina. Come? Con chi? Con la prof. Quando? Di geometria, giusto? Sì. Sul piano cartesiano. Noi sappiamo che le persone che vivono tra Codogno e Verdello d'Almine, che sono altri due paesini del bergamasco e il milanese, non sanno a minimamente cosa sia il piano cartesiano. Ce lo può spiegare? Il piano cartesiano è un asse XY, fine. Punto. Vabbè, così è semplice anche per loro. Sì, ma con questo piano cartesiano, dal punto di vista di giochi o comunque di utilità anche per tutti. Allora, ve lo spiego, è come fare impiccato. Presente quando fate il trattino sopra, fate una linea sopra e una linea sotto. Poi provate a fare impiccato, però non dovete fare impiccato, capito? Cioè dovete fare una X e sotto c'hai meno e più. Ah, e... Ma scusi, mascotte, io spero che sia andata bene questa verifica, perché... Ok, quindi... Comunque, me lo sento nell'aria. Adesso ho visto Stefano, scusa, Stefano, tu come fai a sapere che tra questi due paesi del Bergamasco non sanno il piano cartesiano? Purtroppo conosco dei ragazzi che sono Giorgio e Francesco, che vivono in quelle zone. Che salutiamo. Che salutiamo, ciao, ciao. Giorgio e Francesco, che appunto hanno queste problematiche. Le prime persone, la prima volta che l'ho vista nella loro vita, vagavano per Verdello d'Almine verso Bergamo alla ricerca, chiedendo alle persone con queste sorte di brachilogie di Socrate, vero Vascott? Sì, perfetto, ottimo. Quindi, no, un attimo, nel momento in cui lei cammina per la Bolognina, cammino camminando, vuole che cantiamo insieme la canzone del Ger Rosso, Camminerò? Sì, camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Non era quella, ma questo qua è Mr. No, il Ger Rosso glielo spiego un'altra volta. Sì, facciamo così. Ultima domanda, mascotte. Si riassuma in una frase. Oh. Faccia conto che dal momento in cui siamo potenzialmente davanti ideologicamente, filosoficamente, platonicamente a 17 milioni di persone, loro non sanno chi tu sei, ma non, per fortuna non sanno chi sono neanche io, quindi perfetto. Ma nemmeno io e nemmeno la Cris sanno chi siamo, quindi noi siamo noi dello staff di Dedicato. Io sono io e voi il mercato. In una frase. Mi riassumerei sincera, socievole e permalosa. E molto egoista e molto egocentrica. E sono anche molto creativa e adoro le arti culturali e adoro... adoro italiano. Alla faccia della frase, questo è un monologo. Adieu, mon cor, Francaise. Mon cor, Francaise. Capoeira mata um, zum zum zum, zum zum zum, capoeira mata um. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, ia, ia. Quem não sabe jogar capoeira, pirimbau vale ensinar. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. E zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata um. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, ia, ia. Pra quem não sabe jogar capoeira, pirimbau vale ensinar. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. E zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, capoeira mata um. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. O samba que balança é bom, samba que balança não cai. O meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, ia, ia. Pra quem não sabe jogar capoeira, pirimbau vale ensinar. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Fala-me Deus, o senhor São Bento. Allora ragazzi,

are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Bene ragazzi, allora ascoltiamo i nostri, com'è che hai detto Stefano, telespettatori? Telespettatori, telespettatori, esatto, in radio, esatto, perché sì. Stefano si è evoluto. Sì. Basta Stefano, basta, basta. Va bene così, va bene. Ok, salutiamo. Ciao! Ci risentiamo, no. Ci risentiamo la settimana prossima. Stefano sta ridendo da solo, no, voi non lo vedete. Mi sono fatto un viaggione mentale meraviglioso, sì, che poi vi esporrà solo. In Romagna, vi dico io dove se l'è fatto, in Romagna. In Romagna. Sicuramente, sì, il luogo, cioè, sicuramente, del viaggio. A Bellaria Egea Marina. Vai. E vai, domani vai a Bellaria Egea Marina. Oh yeah. Oh wow. Possiamo dire semplicemente che Stefano andrà a Bellaria Egea Marina, anche a sto giro praticamente, sì, sì, a una festa dub, hai detto? No, in Darsena. In Darsena. E che festa, eventi, è? Sono due eventi diversi, sempre in Romagna. Una Bellaria Egea Marina e una Ravenna. Ok. E sponsorizzato dal Club Adriatico, che è questo collettivo di musica elettronica a cui partecipai alla prima festa 10 anni fa. Quando riesco, tra parentesi, riesco sempre, perché comunque mi sembrano appassionato. Sì, decisamente. Ascoltatori di Bellaria Egea Marina, io credo che lui sia il più grande sponsor turistico del, sì, vostro luogo. Sicuramente in Bologna. Ne ha parlato alla grande di, cioè non so se avete sentito le puntate precedenti con Stefano, ma non fa altro che parlare. Quindi, del vostro luogo. Come sento, dico anche in un altro programma, saluti fuori dalla radio, fate a modo. Buona serata. Fate buona a giornata. Modo. È bello dirlo che ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao Cri! Ciao! Perché Stefano saluta, ma... Ah, ma c'è la mascotte allora! Ciao! Ciao! Ciao a tutti, ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole, va sempre più giù. Che ho stasera dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce non si butta. Ai miei pensieri.